quelli degli anni 70, si parla del stile di un canale di ora. Attenzione, 10 cambio. Oh, that's all right.